Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it. Signore e signori, buongiorno. Radio 24 è lieto di presentarvi Due di Denari, programma che vi parla, programma che vi informa di economia e finanza con autorevole leggerezza. Due di Denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Non saprei come esprimere la mia felicità di questa mattina, caro il mio socio. Buongiorno e bentrovato. Ma buongiorno cara Deborah, buongiorno a te, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Siamo pronti per il trapianto di organi che faremo a qualcuno, visto che siamo travestiti un po' da medici pronti per la sala operatoria, perché il protocollo sanitario è rigidamente seguito ancora. Guarda, seguendo le indicazioni della regia in modo, vi direi, pedissequo, questa mattina ci siamo seduti come sul treno, quindi a posti alternati. Esatto. Posti alternati, io posso vedere dalla mia postazione la scrivania di Milan, tu invece guardi la parete. La parete, esatto, però vedo anche un po' di sguincio anche te e sono ben contenta di essere finalmente ritornata a condurre il programma da qua. Io ho iniziato anche la settimana scorsa, ti ho lasciato fare l'ultima settimana, però con Focus Economia ho annusato i temi economici e economico-finanziari che poi potevamo utilizzare anche per Due di Denari e li ho rilanciati anche spesso. Spesso dicevo, questo lo affronteremo a Due di Denari con Mauro, lo faremo a Due di Denari con Mauro e siamo pronti. Abbiamo un'agenda fitta. Allora, io vi ricordo che nel frattempo non sono cambiati i numeri di telefono per contattarci. Per fortuna, sanificati. E neanche i riferimenti. No, sono sanificati e disinfettati e sono sempre gli stessi. Covid free 800 24 00 24, che è free nel senso che è un numero verde, non pagate nulla se volete interloquire direttamente e dal vivo con noi. Oppure 349-238-6666 è il numero attraverso il quale potete mandarci dei messaggi SMS oppure dei messaggi via WhatsApp che noi leggiamo spesso anche in diretta. Di che parliamo oggi? È un grande classico della ripresa, della trasmissione. Le mie vacanze, il tema delle elementari, le mie vacanze. No, uno esatto. Torna. Dovremmo farlo quello, perché tu sai che quest'anno le vacanze sono state contrassegnate da un sacco di rinvii, da tanti turisti italiani che sono rimasti in Italia, pochi che sono arrivati dall'estero per le ovvie ragioni. Dovremmo cercare di capire il bonus vacanze, se qualche famiglia ha avuto l'opportunità di utilizzarlo e se poi alla fine, quando abbiamo abbandonato Due di Denari, qualche albergatore in più si è allineato e si è messo insomma nella lista, inserito nella lista di quelli che accettavano il famoso bonus erogato appunto alle famiglie italiane. Oggi parliamo del bilancio delle famiglie italiane, come si apre questa stagione, no? Quante spese in più dovranno sostenere le famiglie italiane, se sono quelle di sempre o se il Covid ha portato qualche novità. È un po' il bilancio previsionale, per dir così, insomma, se fossimo un ente locale dovremmo fare un bilancio previsionale e poi farci dare magari del denaro dall'autorità centrale. Purtroppo no. Questo non è possibile per i portafogli delle famiglie, allora affronteremo le spese del rientro. Esatto, quanto dobbiamo spendere? Carrello della spesa, la scuola, le bollette, la casa, quanto ci costerà? Ci sono tanti bonus in circolazione, ma chissà se siamo in grado di poterli utilizzare, perché naturalmente dobbiamo prima mettere mano al portafoglio, poi eventualmente chiedere allo Stato se ci restituisce qualcosa di quanto speso. Bene. E però è lunedì, cara Deborah, io sì, non te lo vorrei ricordare così bruscamente. È lunedì, coraggio, ma il lunedì noi abbiamo sempre l'appuntamento con Meteo Borsa. Tante notizie interessanti, la settimana parte molto bene, te lo anticipo già. Bene, allora andiamo a sentire il nostro meteorologo della giornata. Con la sigla di sempre. Meteo Borsa. Intanto guardavo sul Facebook, siamo ben impostati. No, siamo ben impostati dal punto di vista, come dire, scenografico, anche se siamo distanziati ed alternati, però insomma gli ascoltatori ci possono vedere. No, come si chiamano quelli che ci seguono su Facebook? Non so, i followers, i Facebook spettatori. Allora, diamo il benvenuto ad Alessandro Aspesi, Country Head per l'Italia di Columbia Free Needle Investment. Buongiorno, buongiorno, buon lunedì, buon rientro, buona ripresa, dottor Aspesi. Buongiorno, grazie per l'invito. Tra l'altro ti dico che Alessandro Aspesi ha fatto le vacanze nelle Marche. Non ci siamo incontrati, ma io lo so. E quindi, come dire, molto ben alla predisposto. Alla fine qui è tutto un magna magna con certo. Questa vicenda delle Marche. Si è trovato bene, dottor Aspesi? Benissimo. Guardi che può dire la verità. Non ho pagato. Allora, intanto vi dico cosa succede in borsa stamattina. Parte tutto molto bene, caro Mauro. Pensa che venerdì scorso Wall Street sullo Standard & Poor's è stata archiviata una delle migliori, anzi il miglior mese, quello di agosto, da 34 anni a questa parte. Chiaramente partendo un po', uno potrebbe dire partendo dal basso non poteva che andare molto bene, ma il mercato americano non partiva neanche tanto dal basso, quindi continua a correre incurante di un PIL americano che è calato da un anno all'altro di oltre il 30%, meno 10 punti percentuali su base mensile, e oggi abbiamo peraltro il dato italiano. Ma detto questo, andiamo alla fotografia di questo momento. FTSE MIB a Piazza Affari più 0,91, Parigi in rialzo di un punto, Francoforte più 0,7, Londra chiusa per festività. Tokyo e tutta l'Asia stamattina molto brillanti, c'è un dato cinese positivo, c'è Warren Buffett che ha deciso di investire molto sul Giappone, su alcune società di trading, speriamo che non siano quelle che ci telefonano per proporci qualche truffa, ma non credo che Warren Buffett faccia questo errore. Ma no, vedrai che Warren Buffett ha seguito il serpente corallo, ecco, tutta l'estate, tutto questo mese di agosto, e quindi sarà stato attentissimo. E so quindi, che Warren è tra i nostri, esatto, fan, certo, del Chapter 11. E quindi dobbiamo ricommentare con Alessandro Aspesi questo clip. Ma è euforico che difficilmente ci spieghiamo, no Mauro? Rimaniamo con gli stessi interrogativi con cui ci siamo lasciati a prima dell'estate. Aspesi, allora, tutta questa euforia del mercato ci deve spiegare se è ancora tutto legato alle iniziative di politica monetaria molto accomodante confermate dalle banche centrali, l'ultima grossa operazione l'ha fatta la Banca Centrale Americana, o tutto sommato bisogna crederci a questa ripresa post-Covid? Ma se andassimo a vedere il dettaglio della composizione dei vari indici, ci renderemmo conto che questa grandissima ripresa che abbiamo visto post-Covid è stata trainata principalmente da due settori: il settore tecnologico da una parte e il settore della biotecnologia e farmaceutico dall'altra. Quindi, guardando anche gli stessi indici, il Dow Jones venerdì per la prima volta è riuscito a tornare in positivo da inizio anno. Il Nasdaq è ampiamente sopra i 30 punti percentuali di recupero da inizio anno. Quindi se guardiamo il mercato nel suo insieme, i dati ci dimostrano che il mercato sta andando molto bene, che comunque i mercati finanziari stanno scontando delle situazioni di ripresa abbastanza forte nell'economia mondiale. Se poi guardiamo i singoli componenti, invece vediamo che molti settori sono andati enormemente male. Quelli che vengono chiamati tipicamente settori ciclici, quindi settori legati in principal modo al settore economico, come quello dei trasporti, come quello della ristorazione e via dicendo. Detto questo, abbiamo visto anche dei grandi cambiamenti, per esempio all'interno del Dow Jones, che è l'indice delle 30 maggiori aziende in America, dove sono uscite tre aziende appartenenti, chiamiamola quella che viene chiamata la old economy, e sono entrate invece tre aziende legate al settore tecnologico. Quindi questo è un segnale forte che il mercato, è vero che ha i valori massimi, ma sono solo due grandi settori che hanno dominato questa cavalcata dei mercati. Tra l'altro, a proposito, Mauro, di questa notizia, di questa riorganizzazione del Dow Jones, c'è anche da segnalare che oggi c'è un'altra operazione importante che va segnalata agli ascoltatori, se non altro perché magari adesso qualcuno avrà l'opportunità di investire nel settore tecnologico, laddove prima questa opportunità era pregiudicata dal fatto che certe società avevano prezzi inarrivabili. A partire dalla stessa Apple, oggi un'azione verrà spezzata in quattro, quindi Mauro, adesso potrai anche tu investire nelle azioni. Quindi dopo Amazon, ovviamente adesso il nostro grande cavallo di battaglia diventerà Apple. Non lo so, magari tengo le birinzini o più, ma questo mi serve, quella battuta naturalmente mi serve, Aspesi, per venire un po' sul mercato italiano, perché come noi in Italia come va? Anzi, direi in Europa prima che in Italia, e poi in Italia come andiamo? Che prospettive abbiamo? In Europa abbiamo delle aziende molto più legate al ciclo economico, come ho detto precedentemente, quindi per esempio in Germania il settore delle auto e della manifattura è molto importante ed è legato ovviamente anche alle esportazioni al di fuori dell'Europa. L'Italia ancora di più è fortemente dominata da un settore finanziario e bancario che ovviamente in questo momento non hanno dei grandi margini di recupero, vuoi perché i tassi di interesse sono negativi e quindi i margini di intermediazione sono molto bassi per le banche, vuoi perché ci sono ancora oggi troppe banche in circolazione rispetto a un numero che potrebbe garantire più sostenibilità dei bilanci di tutte le banche, e di conseguenza noi siamo il fanalino di coda in questo momento nell'ambito azionario europeo, che comunque è molto meno competitivo rispetto a quello americano. E a proposito di mercato italiano, oggi è una giornata importante perché ci sono due consigli di amministrazione strategici. Il primo è quello della Cassa Depositi e Prestiti, il secondo è quello di TIM, perché pare che insomma nelle prossime ore si potrà firmare questa lettera di intenti che porterà molti attori appunto a dare il via libera alla cosiddetta rete unica delle telecomunicazioni. Visto che prima parlavamo di tecnologia americana, il nostro paese avrebbe bisogno di una fortissima operazione di ammodernamento, se non altro perché insomma, visto quanti abbiamo lavorato in smart working in questi mesi, la didattica a distanza per la scuola, abbiamo bisogno di una rete efficiente, veloce, e questa potrebbe essere l'occasione. Qual è l'importanza che gli operatori finanziari danno a questa iniziativa nel nostro paese, Aspesi? Ma in primis, se consideriamo quello che si è sempre sostenuto in passato, cioè che la competizione potesse favorire migliori prezzi per i consumatori, per quanto riguarda la rete unica è stato smentito, quindi già a livello internazionale la scelta chiara è stata quella di utilizzare un unico operatore per diciamo la fibra unica, e quindi ci stiamo adeguando a quello che il mondo ha già fatto a livello di infrastrutture per fare passare questi flussi di comunicazione. Quindi stiamo facendo quello che è già successo in altri paesi nel mondo. È importante che questo nuovo operatore rientri anche come centralità nelle comunicazioni internazionali. Ricordiamoci che poi la fibra potrà essere utilizzata anche da paesi per esempio medio orientali o del Sudafrica in comunicazione con il resto del mondo. È chiaro che qua il punto da considerare è che tipicamente poi essendo TIM o Telecom Italia un'azienda verticalmente integrata, bisognerà capire come e quando poi potenzialmente ci potrà essere uno split per quanto riguarda la distribuzione da una parte e la società dell'altra, come abbiamo visto con Terna per esempio anni fa. Però è centrale per un paese come il nostro, che ha dei grandissimi deficit a livello infrastrutturale per le comunicazioni e per le informazioni, sviluppare il processo di digitalizzazione. Noi siamo comunque un paese molto difficile da collegare per tutta la nostra eredità anche geografica, Appennini e via dicendo. È molto importante riuscire il prima possibile a mettere il primo mattoncino per questo nuovo operatore unico. Sì, stavamo intanto ricordandoci di una cosa con Mauro a microfoni spenti, perché a proposito dell'identità digitale, Mauro. Sì, perché l'INPS, dovete sapere che dal 1 di ottobre passerà obbligatoriamente allo SPID, quindi cominciamo a dirvelo, poi visto che tu, Deborah, hai messo da parte un po' di cose durante la scorsa settimana per affrontarle qui a Due di Denari, io mi permetto di aggiungere alla tua agenda anche questa. Quindi per comunicare con INPS ci vorrà lo SPID, quindi se già non ce più l'avete, il bene. PIN dispositivo rilasciato generalmente in due tranche dall'istituto di previdenza? Dovrai adeguarti allo SPID, dovrai farne richiesta. Niente. Io non vorrei fare il primo della classe, ma già l'ho attivato. Se vuoi poi ti posso dare qualche lezione così di richiesta dello SPID. Volentieri. Non so, Aspesi, lei ha già attivato lo SPID? Eh sì, perché ho comprato le biciclette, quindi di conseguenza mi era richiesto lo SPID, sì. Per avere il bonus. Che ancora però ha visto che non è partito, insomma stiamo ancora aspettando i provvedimenti attuativi. La fiducia. È come in borsa, si scontano degli scenari futuri, quindi io mi sono adeguato e va bene, contando la possibilità di riceverli, l'ho acquistata. E allora più che altro lei ha preso un future più che un bonus in questo momento, mi verrebbe da dire. Va bene, la ringraziamo anche per aver scherzato con noi su questa cosa in realtà molto seria, sai Deborah, il bonus cosiddetto dei monopattini e delle biciclette ancora, come dire, deve perché essere il regolamentato. Il Ministero dello Sviluppo Economico doveva attivare la piattaforma su cui fare poi la domanda, appunto. Ci vuole pazienza, metti anche questo nell'agenda, va là. Mamma mia, guarda, va bene, andiamo alle altre notizie perché abbiamo riportato in vita anche il giornale radio del risparmio. Eccolo. Ta-na-na-na, amore, i soldi, ta-na-na-na-na-na. Senti, prima della notizia però vorrei chiedere agli ascoltatori se gentilmente ci rinfrescano il nostro serbatoio di siglette del giornale radio del risparmio, quindi mandate i vostri WhatsApp audio, come li chiama Simone Spezia, io li chiamo i messaggi vocali. Ma così tutta una parola, WhatsApp audio? Sì, pare di sì, io invece li chiamo messaggi vocali su WhatsApp 349-238-6666, non solo per mandarci i vostri commenti, saluti e domande sulle trasmissioni del giorno, ma rinfreschiamo anche le nostre siglette, così aggiorniamo anche il nostro parco sigle del giornale radio del risparmio e partiamo proprio con le babysitter. E infatti, perché oggi è l'ultimo giorno per godere, per usufruire il del bonus babysitter, cioè il bonus cosiddetto del babysitter, che ha avuto anche una notorietà perché poteva essere esteso pure ai nonni, come ti ricorderai Deborah. Allora, la legge di conversione del decreto rilancio ha esteso proprio alla data di oggi, del 31 agosto, il periodo per il quale si può usufruire di questo bonus che vale babysitter, nonni, centri estivi. Potranno essere remunerate le prestazioni tramite il libretto famiglia. Parliamo di prestazioni quindi che vanno dal 5 di marzo scorso, che è appena prima del lockdown. A me quella parola lì comincia a dare veramente anche un fastidio fisico. Come la possiamo sostituire? Vabbè, faremo un sondaggio con gli ascoltatori anche su questo. Dal 5 marzo 2020, dicevo, fino al 31 agosto 2020 c'è diritto a richiedere il bonus babysitter. Le prestazioni potranno essere comunicate sulla piattaforma delle prestazioni occasionali entro il 31 di dicembre prossimo, certo. 31 dicembre 2020. Il tema più gettonato del 2020, anche se l'anno non si è ovviamente ancora concluso e ci sono ancora diversi mesi davanti a noi, ma abbiamo già il vincitore, lo possiamo già prevedere con assoluta certezza, il tema anche preferito del Sole 24 Ore. È un po' come la tua squadra del cuore, guarda. Cosa vorresti dire? Non ricominciamo, nel senso che vince l'ennesimo scudetto il super bonus del 110%. Stamattina il Sole 24 Ore ritorna su questo argomento, dimmi che casa hai e ti dirò se ti spetta il super bonus. Bisogna infatti partire dalle caratteristiche dell'edificio per rispondere alla domanda che si stanno ponendo in questi giorni tutti i proprietari che sarebbero in linea teorica intenzionati a fare dei lavori importanti per la propria casa per ottenere questa imponente agevolazione fiscale. Posso ristrutturare casa a costo zero grazie al 110%? Proprio pochi giorni fa una mia amica Raffaella mi ha fatto la stessa domanda. Ma è vero che posso far venire il tizio che mi rifà gli infissi e non pagare nulla perché la spesa se la incarica tutta lui? Allora, sì, ma ne abbiamo parlato già in diverse trasmissioni, però io consiglio questo. Allora, se siete abbonati ad esempio al Sole 24 Ore anche nella versione web, www.ilsole24ore.com, perché in questo mese di agosto abbiamo prodotto diversi instant, diversi fascicoli proprio dedicati al 110%, e lì trovate un po' il riepilogo di tutta la materia. Per rispondere alla tua amica Raffaella, ci può riuscire a certe condizioni, non è detto, tra che cui trovare la banca che ti fa la cessione del credito d'imposta, l'azienda che fa lo stesso, e poi comunque bisogna vedere la tua capienza fiscale, perché non è detto che se tu spendi 15.000 euro per rifare gli infissi significa che in 5 anni lo Stato ti ridà tutti questi soldi. Bisogna vedere in termini fiscali quanto paghi di IRPEF, c'è quel piccolo passaggio lì che non tutti capiscono. Caspita, ma ti trovo informatissima, neanche tu avessi ascoltato Radio 24 per tutto agosto. È che ho fatto delle vacanze casalinghe, quindi mi sono dedicata allo studio, ma neanche per niente. Allora, insomma, per chiudere questa notizia sul super bonus, fra gli oltre 12 milioni di edifici residenziali registrati dall'Istat nell'ultimo censimento, i casi più lineari, e quindi i casi più lineari significa quelli che più facilmente potrebbero ottenere questo bonus facendo lavori, sono quelli delle case monofamiliari costituite da un'unica abitazione, circa 6,2 milioni, e nei condomini medio-grandi, circa 600.000 palazzi con più di 9 appartamenti. Tu Tutto questo ce lo raccontano stamattina Cristiano Dell'Oste e Giuseppe Latour a pagina 3 del Sole 24 Ore, dove c'è una carrellata di casi tipo di edifici, appunto, che possono ovviamente essere rimessi a nuovo grazie a questo incentivo. Capisco dalla tua ottima preparazione sul bonus del 110% che non hai perso la buona, anzi ottima abitudine di leggere religiosamente le pagine di norme e tributi del Sole 24 Ore. Perché te lo dico? Perché anche oggi, pagina 15, l'Angelo Busani, l'amico Angelo Busani, il notaio Angelo Busani, ci spiega che dal 17 di luglio è possibile, significa che non è obbligatorio, allegare ai rogiti della compravendita un certificato di stato legittimo. Cioè, che cos'è? È una dichiarazione che viene rilasciata da un tecnico abilitato che attesta che non ci sono violazioni alla disciplina edilizia e urbanistica, oppure che c'è la presenza di tolleranze costruttive. È una novità che è stata introdotta dal decreto legge 76 e sostituisce la dichiarazione di conformità edilizia e urbanistica. Ha un forte rilievo, come spiega il notaio Busani, perché assevera, appunto, e quindi comporta la responsabilità penale se uno rilascia delle dichiarazioni false. Ripeto, non è obbligatorio allegarlo ai rogiti, però è possibile da venerdì 17 luglio, me lo ricordo, era un venerdì 17. Bene, senti, casa, e anche la casa è al centro dell'approfondimento che abbiamo scelto di fare oggi a Due di Denari. 349-238-6666 il numero per i vostri messaggi. Raccontateci quali saranno le spese più impegnative che vi aspettano da qui alle prossime settimane. Avete intenzione di ristrutturare la vostra abitazione per avere questi bonus, o ci saranno altre spese fisse che invece vi preoccupano un po', a cui non si può rinunciare, quindi peseranno sul bilancio della famiglia? Riparte la scuola, questa sicuramente sarà una di queste. Io direi che possiamo, Mauro, con una sigletta far partire il tema di oggi, salutare il nostro ospite, fargli fare una presentazione e poi pian piano arriviamo. Ah no, io volevo salutarlo già prima, Marco, e pazienza, allora niente. No, prima vogliamo sapere. Mi devo riabituare alla trasmissione in studio. Guarda, allora, cara Deborah, bentornata in studio, ti voglio dire, di solito noi alle 11.30, sì, qui a Due di Denari, menavo il camperlaia. Ecco, qui a Due di Denari facciamo il collegamento per capire come stanno andando le borse. Lo faccio subito. Tu già ci hai dato delle informazioni abbastanza ghiotte, sì, ma non è che puoi farlo così al crudo, per usare un altro termine del mercato immobiliare. Abbiamo tutta una nostra liturgia. Adesso, cortesemente dalla regia, verrà inviata una apposita e specifica sigletta. Prego la regia di agevolare. Che la vaga ben, che la vaga mal, la borsa vogliamo ascoltare. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta Due di Denari. Adesso, se vuoi, cara Deborah, puoi dare il benvenuto al nostro esperto, come sempre esperto di valore mondiale. Del resto, per la prima puntata della nuova stagione non potevamo scendere certo al di sotto del nostro abituale livello. Allora, dai tu il benvenuto, fai gli onori di casa. Un grande amico di Due di Denari, con il quale abbiamo fatto tanti scoop anche nel passato, tante battaglie condivise insieme, sempre al fianco dei consumatori. Luigi Gabriele, presidente di Consumerismo No Profit, la lobby indipendente dei consumatori, ma soprattutto un'organizzazione che ha uno staff di esperti e legali e non solo, con il quale appunto si aiutano moltissimi consumatori alle prese con difficoltà, piccole traversie di ordinaria amministrazione, ma anche straordinaria, controversie finanziarie e non solo. Luigi, ben ritrovato, grazie, buongiorno. Buongiorno, dalla presentazione sembra quasi che mi dovete chiedere dei soldi. Ma aspetta un attimo prima di finire, che non è detto che non ci sia questo colpo di scena, sì, non sì, lo scongiurerei del tutto. Poi ti forniamo un IBAN apposito e specifico. Preferisco un conto è PayPal. La grande novità di Due di Denari, non te l'aveva detto Marco Lombardo quando ti ha chiamato per venire da noi? Può chiudersi la chiamata in qualsiasi momento. Da che si parte, Mauro? Guarda, allora, io partirei da un tema che tutti ci sta appassionando in questi giorni. Appassionando è un termine gentile. La scuola, spese per la scuola. Luigi, come siamo combinati? Sappiamo che ci sono tutte queste incertezze su presenza, trasporto degli alunni, posizionamento, eccetera, eccetera. Ma e poi, non ultimo, c'è anche il problema di devo comprare i libri, devo comprare il corredo, mi devo attrezzare. Insomma, in famiglia gli importi possono essere anche rilevanti, specialmente via via che si sale con le classi. Teniamo conto che ogni anno alcune spese si rinnovano, quindi non sempre è possibile ad esempio acquistare dei libri usati, non sempre è possibile riutilizzare delle attrezzature che magari avevamo acquistato l'anno precedente. Pensate che da una forbice più o meno attendibile di calcoli che vengono fatti annualmente, la spesa per la scuola può andare da un minimo di 350 euro a seconda della classe a cui appartiene il bambino, fino a un massimo di 1200 euro magari per un adolescente che va al liceo. Da quest'anno probabilmente, oltre al solito kit e corredo tradizionale, quindi quello che tutti noi abbiamo acquistato quando eravamo ragazzini, lo zaino, l'astuccio, libri, penne, quaderni e così via, probabilmente si aggiungerà anche l'opzione devices elettronico. Esatto, esatto, cioè o ci compriamo un tablet, quindi iPad o altro tablet, insomma quello che volete, o ci compriamo un personal computer, o insomma bisogna mettersi in condizione di essere pronti a tutto, come già abbiamo dovuto sperimentare in primavera. Beh, l'abbiamo visto in primavera, magari alcune famiglie avevano a disposizione soltanto un paio di telefoni, quelli della mamma e del papà, e i più fortunati avevano un tablet e forse anche un portatile. Numerose ricerche anche di tutti scientifici qualificati hanno dimostrato che, ahimè, gran parte delle famiglie italiane non erano preparate alla formazione a distanza e molti hanno dovuto in qualche modo utilizzare l'ingegno per poter far partecipare i ragazzi alle lezioni a distanza, come magari un telefono in casa, quello del papà, è servito come hotspot. Che cos'era l'hotspot? Era il telefono che faceva da modem per diversi dispositivi collegati, come un tablet più un altro dispositivo che poteva essere un computer portatile. Questo ha dimostrato una grande fragilità delle famiglie italiane, non soltanto nei confronti del cosiddetto digital divided, ma in gran parte delle famiglie si è riscontrato che non potevano nemmeno permettersi uno strumento per partecipare alla formazione a distanza, perché magari molti strumenti richiedevano anche l'ausilio di una fotocamera. Probabilmente oltre alla fotocamera insieme al microfono serviva uno strumento per accedere a dei software online, e oltre all'utilizzo di questi strumenti, che per un terzo delle famiglie a quanto pare è risultato essere estremamente difficoltoso, non c'era proprio lo strumento stesso. Sì, alcune famiglie hanno dovuto condividere un telefono per più persone, un solo tablet per 2-3 persone. Quest'anno certamente nel corredo scolastico si aggiungerà il tablet o il portatile aggiuntivo per la famiglia, perché se torniamo alle condizioni di dover fare formazione a distanza e comunque lavorare sempre smart working per molti di noi, non possiamo continuare a fare come abbiamo fatto nelle precedenti nei 3 mesi durante il lockdown. Due domande, Luigi. Scegliere un, uso quel termine inglese, device, cioè uno strumento, un dispositivo per connettersi, quali possono essere le raccomandazioni utili per chi si appresta a farlo, anche nella ricerca di sconti, se però magari bisogna stare attenti poi a non avere magari acquistato qualcosa di non adatto, di non sufficiente. E la seconda domanda è, poi ci vuole l'abbonamento al gestore però, perché ci vuole la connessione. E qui allora, Deborah già sorride perché pregusta. No, perché in tutto questo mare di difficoltà che molte famiglie hanno dovuto affrontare, gli operatori delle telecomunicazioni in piena estate, come al solito, non hanno avuto nessuna pietà e non è che ci hanno pensato tanto a rimodulare le offerte, comunicandole naturalmente nel bel mezzo di un periodo in cui uno le mail non le guarda, magari le comunicazioni le riceve con un po' più di fatica, e quindi arrivano, scattano gli aumenti, track, e tu non puoi fare il diritto di recesso. Ma andiamo con ordine, partiamo con le raccomandazioni sull'acquisto del device. Device, Luigi. Allora, intanto ormai è pieno di tablet o di strumenti di qualsiasi tipo, magari anche dei laptop, i cosiddetti portatili, che possono anche diventare semplicemente dei tablet. Scusate l'utilizzo di termini inglesi, ma purtroppo per alcune materie è impossibile non effettuarlo. Io mi orienterei, se fossi in una famiglia che deve fare una scelta, all'acquisto prevalentemente di un laptop, ovvero di un computer portatile. Perché? Perché ha la possibilità non solo di la manovrabilità d'uso del computer, la flessibilità, la resilienza, ha tutto l'insieme di strumenti che possono servire per connettere anche altri strumenti, come la televisione. Abbiamo visto che magari alcune bambine hanno fatto le lezioni di danza con il videocollegamento, possiamo connettere la smart TV che è sempre più diffusa dentro casa, possiamo connettere innumerevoli nuovi strumenti e utilizzarlo anche un po' come hotspot per più telefoni. Se vogliamo acquistare un tablet, ricordiamoci che il tablet va bene per effettuare le videochiamate, per effettuare quindi le formazioni a distanza, ma diventa difficile effettuare ad esempio le modifiche di alcuni strumenti di testo. Se dobbiamo modificare, compilare dei campi e così via, siamo abbastanza limitati con i tablet, mentre con un portatile è più facile. I costi comunque tra i due non sono molto lontani, certo è, dipende da quello che dobbiamo farci. Io acquisterei gli strumenti soltanto in marketplace, quindi su internet, in marketplace certificati, quindi non acquistate da chiunque sia. Andate su, non solo su più blasonati, ma anche sulle grandi catene di distribuzione che ormai hanno tutti il commercio elettronico. E poi tra l'altro aggiungo, fanno anche la consegna a casa, come è successo durante il lockdown, per chi avesse avuto bisogno di comprare anche un elettrodomestico. Esatto, si hanno fatto la consegna a casa, chiaramente hanno cercato di limitare quanto più possibile le visite nei centri commerciali, poi sono stati pure chiusi, quindi chiusa parentesi, Luigi. No, e questo continua a essere in vigore. Poi ricordatevi che quando ho utilizzato un tablet o un qualsiasi strumento va connesso a internet. Se siete più persone, io opterei non per fare dei singoli strumenti con delle singole connessioni, quindi magari con delle SIM per ogni device, ma opterei per avere oggi, ormai, tutti quanti ci possiamo permettere più o meno di raggiungere, risparmiando qualcos'altro, alla spesa di 20 euro mensili per avere una connessione ultra veloce, non sempre in fibra, fate attenzione anche in questo perché vi vendono la fibra ma poi è rame, ma dalla connessione domestica centralizzata si possono connettere molti strumenti e comunque abbiamo un solo contratto e più strumenti da poter collegare. Invece se scegliamo un tablet potete opzionare per prendere quello senza SIM e quindi vi dovete connettere, dovete avere a casa necessariamente un wifi. O se scegliete quello con la SIM fate attenzione perché è come se fosse un vero e proprio telefono, quindi dovete opzionare per una tariffa, per un'opzione che sia congrua rispetto al consumo che ne dovete fare, perché magari poi vi forniscono 10 GB invece soltanto per video ne avete bisogno di 6. Quindi fate attenzione su questo, fatevi consigliare bene e leggete tanto online, ci sono molti portali accreditati che sono dati degli ottimi. Le rimodulazioni, i rincari che stanno arrivando sui clienti di servizi di telecomunicazioni, Luigi, lo scriveva Alessandro Longo sul sito del Sole 24 Ore, che ha monitorato appunto il comportamento delle più grandi compagnie in questo momento e sembra proprio che molte comunicazioni siano arrivate bellamente i primi 15 giorni di agosto, per cui se qualcuno non fosse tanto d'accordo con il rincaro proposto, magari accompagnato anche ad una riorganizzazione dei servizi, ma in ogni caso ha i famosi 30 giorni di tempo per il diritto di recesso, ma se la comunicazione ti è sfuggita si fa un po' fatica. Avete riscontrato anche voi questo? Guarda, allora, tutto ciò? Nel nostro ordinamento purtroppo mette la possibilità in capo agli operatori di poter fare le cosiddette modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali. È l'articolo 70 del codice delle comunicazioni che si chiama il cosiddetto ius variandi, che sono anni che cerchiamo di contestare. Significa che in Italia in qualsiasi rapporto contrattuale tutti hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri, nei contratti invece della telefonia l'operatore ha questa deroga che può modificare le condizioni del contratto. È una cosa brutta da un profilo giuridico e anche economico, ci sono state diverse sentenze che hanno detto che va rivista questa cosa, l'autorità cerca ogni volta di trovare una soluzione, il fatto sta che comunque se tu hai un rapporto contrattuale con un operatore di telefonia, lui può modificare le condizioni del tuo contratto in qualsiasi momento, condizioni sia di natura tecnica, giuridica che economica, ma purché te lo comunica e tu devi avere solo 30 giorni di tempo in anticipo questa comunicazione prima che entra in vigore e in quei 30 giorni puoi decidere eventualmente se recedere o meno dal contratto. Ci sono diversi problemi, intanto il primo problema è che te lo comunicano spesso con un SMS, che quasi sempre nemmeno lo leggi, perché te ne mandano tanti di SMS al giorno, magari dall'operatore blu, arancione e rosso, e tu spesso non ci fai nemmeno caso. Quindi non sono obbligati ad esempio a mandarti una raccomandata, perché l'opzione di comunicazione la stabilisce l'Agicom e ha previsto anche la possibilità di comunicarti attraverso delle forme più snelle come gli SMS o l'email. Quindi ti sfugge che ti hanno fatto la modifica del contratto, tu non l'hai letto, ti perdi 30 giorni e rimani fregato, perché ti accorgi dopo i 30 giorni che ti hanno aumentato il costo. Con questa modifica che hanno fatto durante il periodo di agosto si avvia la stagione della fine dei cosiddetti contratti a consumo, già era nell'aria questa cosa da parte degli operatori, significa che da oggi in poi si saranno soltanto le cosiddette SIM con il quantitativo di SMS, di minuti, di giga a disposizione. Se tu vuoi semplicemente telefonare e pagare per quello che telefoni, non esistono più queste cose. Già l'abbiamo sollevata diverse volte, l'autorità anche sta correndo dietro agli operatori, sono scelte economiche di mercato, fate appunto. Io consiglio ai consumatori, avete 30 giorni di tempo per recedere, fatelo, perché le modifiche unilaterali proposte in questo caso dai due operatori principali sono molto gravose, perché alcune rincarano addirittura di 4 euro le condizioni, in altri casi invece per la TIM sul fisso si arriva a 2 euro a seconda del tipo di rincaro che viene effettuato. Io opzionerei la possibilità di recedere da questi contratti e scegliermi un altro operatore, anche perché nel mercato della telefonia si può fare, visto che più o meno un po' di concorrenza c'è. Però fate attenzione, ve lo diciamo sempre, io consiglio di non acquistare o di non vincolarsi con contratti dove c'è il telefono a incomodo rate da 15 euro, da 20 euro al mese, o il modem, perché poi quando andate a recedere da questi contratti recedete soltanto dalle condizioni economiche contrattuali relative alla parte telefonia. Ma se avete acquistato scusate se lo chiamo elettrodomestico, lo strumento, lì dovrete continuare a pagarlo e quindi vi ritroverete magari con un contratto a parte dove continuerà a prelevarvi dalla vostra dal vostro bancomat, dal conto corrente o dalla carta di credito quello che dovete ridare in 24-48 mesi per l'acquisto del treno. Fate attenzione. Grazie Luigi, dobbiamo fermare un attimo perché al 45esimo, lo ricordo anche a te cara Debora, l'arbitro qui prima, a due di denari, sì, fischia il traffico. Mauro, buongiorno, non ricordo, ma che l'altra fa la Coppa UEFA? Non ricordo. Due di denari. Pensavi solo ai soldi, soldi, come se avessi avuto soldi, soldi. Dimmi se ti manco te ne fotti, fotti. Beh, allora chiamiamolo Crash Dump. Mi chiedevi come va, come va, come va, adesso come va, come va, come va. Non ho capito cosa ha detto, allora chiamiamolo Crash Down. Ah, il... Ti ricordi il lockdown, che cerchiamo un altro nome? Esatto, e no, la giornata del crash dell'INPS del primo aprile, quando ci furono milioni e milioni di italiani. Il famoso data breach, per il quale sono anche stato giustamente dileggiato dagli ascoltatori. Ah, quindi no, era il data breach, non c'entra con il crash down. E vabbè, chiameremolo il crash down, non più lockdown. Ma io lo chiamerei seccatura, che vorrei cercare di evitare anche per il futuro. Lasciamocelo alle spalle quanto più possibile. Invece, seccature che non possiamo evitare, ce ne racconta Luigi Gabriele, che è il presidente di Consumerismo No Profit. Tra l'altro, non l'abbiamo detto prima, ma lo dico ora, consumerismo.it, se volete anche delle indicazioni, delle dritte su molte delle cose che stiamo raccontando qui. Luigi, abbiamo in sospeso, abbiamo parlato delle bollette per quanto riguarda il rapporto con la telefonia mobile, perché ci siamo arrivati ragionando di scuola, ma anche invece per quanto riguarda le bollette, quelle tradizionali, gas, luce, acqua, cosa dobbiamo aspettarci da questo rientro? Sto verificando i dati provvisori che ha appena mandato un'ora e mezza fa l'Istat, che ha rilevato che in realtà i prezzi per i beni energetici regolamentati sono scesi del circa il 13%, quindi il cosiddetto mercato tutelato è il 13% in meno rispetto a quello che era il trimestre precedente. Questo è il trimestre da giugno ad agosto. mentre gli energetici non regolamentari, ovvero il cosiddetto mercato libero, anche lui per correre dietro alla coda della revisione del mercato di tutela è sceso di un 6%. Significa che in questo momento l'energia elettrica e il gas acquistata, fornita attraverso il mercato tutelato è più conveniente rispetto a quella sul mercato libero. Poi ovviamente se uno vuole anche la caldaia, vuole la macchina collegata, vuole una serie di servizi, il mercato tutelato questo non può dartelo, il libero sì, quindi non è solo una questione di prezzo, però al momento comprare energia sul tutelato è più conveniente. E cosa altro stavo vedendo? È arrivata appena un'altra rilevazione che ci dice che se le nostre bollette fossero depurate dai cosiddetti costi ulteriori rispetto a solo quello della materia prima, quindi ai famosi costi di gestione, trasporto, oneri di sistema e così via, noi pagheremmo esattamente il 70% di quello che stiamo pagando adesso. Significa che una famiglia tipo, per farvi un esempio, che normalmente paga 600 euro l'anno di energia, sto dicendo la cosiddetta famiglia tipo, signori, attenzione, quella che non esiste, sì sì, esatto, lo diciamo perché esatto. Poi c'è... È il famoso pollo, la famiglia pollo di Trilussa. Esatto, se quella famiglia oggi paga 600 euro, con una bolletta priva di tutte queste fastidiosissime voci che troviamo in bolletta, che siamo costretti comunque a pagare, che non capiamo nemmeno che cosa sono, invece pagherebbe soltanto 200 euro. Significa che in realtà il costo dell'energia è abbastanza basso, non è il costo dell'energia che noi paghiamo in maniera esagerata in questo paese, ma sono tutte le altre voci che servono per finanziare, come abbiamo detto più volte, le innumerevoli politiche energetiche che sono state portate avanti negli ultimi 20 anni. A questo proposito, Deborah, io mi permetto di ricordare anche a tutte le compagnie fornitori di energia che mi telefonano abitualmente che l'obbligo, la scomparsa del mercato di maggior tutela al divertente. Momento è fissata, e chiedo il suggello di Luigi Gabriele, al 1 gennaio 2022, quindi esatto. Non telefonatemi oggi pomeriggio per dirmi che devo passare al mercato libero. Posso anche deciderlo, possiamo tutti deciderlo, per valutare il risparmio, ma non c'è nessuna urgenza. Dico bene, Luigi? No, grazie Mauro. Tra l'altro la fantasia sta raggiungendo livelli veramente fantasmagorici. L'altro giorno ho beccato una truffa, sempre per far trasferire dal mercato tutelato al libero, in questo caso dei bar. Andavano questi ragazzi che poi tra l'altro non so se vengono formati per fare questo. Esatto, ma il problema è questo, che sono giovanissimi e del tutto non qualificati e impreparati, sì. Tu pensa che ordinavano semplicemente una bottiglietta d'acqua, con l'arrivo della bottiglietta ti portano lo scontrino, prendevano lo scontrino dove ci sono tutti i dati fiscali dell'attività commerciale. Quando si alzavano andavano via, raccoglievano tutti questi scontrini, compilavano montagne di contratti in maniera fasulla, mettevano le firme apocrife, le consegnavano in agenzia e via, il contratto era attivo. Me l'hanno riferito numerosi bar che dalla sera alla mattina. Ma non ci credo, ma questa è una cosa veramente da denunciare a qualche procura, scusa. Ma stessa operazione che poi vi ricorderete, durante il mese di luglio la procura di Milano ha dovuto aprire questo fascicolo nei confronti delle compagnie telefoniche che attivavano servizi non richiesti sulle firme dei frigoriferi. E purtroppo in Italia ci sono questi fenomeni che sono impensabili da un punto di vista etico e sociale, ma che in realtà poi attraverso le innumerevoli articolazioni anche della regolazione in materia vengono effettuate, perché poi la pena è quasi irrisoria, perché parliamo di pene di natura economica combinate dall'antitrust per le pratiche commerciali scorrette, e da un profilo invece penalistico ci dovrebbe essere qualcuno, un pubblico ministero che apre dei fascicoli, ma questo non avviene quasi mai, perché sono rarissimi i casi in cui i pubblici ministeri aprono fascicoli nei confronti dei grandi operatori per queste tematiche. Tra l'altro ne abbiamo parlato al Serpente Corallo, sì. Cara Deborah, se tu hai ad esempio l'allarme di casa che è collegato, che ti telefona eccetera, stai attenta che non si sia abbonato all'oroscopo, alle previsioni del tempo, perché purtroppo questo è uno dei profili di reato. Servizi che la procura sta verificando. Io so che la mattina in effetti Deborah chiede al suo frigorifero che che tempo fa oggi, quindi magari l'ha autorizzato lei il frigorifero. Guarda, vero? A tal proposito del frigorifero, eccoci. Chiudiamo in bellezza la nostra trasmissione, anche se in realtà questo tema è talmente interessante e bello che necessiterebbe di una puntata a sé, il carrello della spesa. Cosa ci dobbiamo aspettare in questo autunno? In primavera abbiamo riorganizzato in maniera abbastanza drastica le nostre abitudini di consumo, perché in molti si sono fatti portare la spesa a casa, a parte quelli che come dire si avventuravano in queste file che duravano ore per andare al supermercato, ma in realtà c'è chi ha esplorato, Luigi, altri canali per fare la spesa, per comporre il proprio carrello della spesa. E la spesa è costata un po' di più, perché poi i grandi centri commerciali, le grandi insegne hanno sospeso in questi mesi tutti gli sconti, tutte le offerte, quindi tutti i beni sono ritornati a prezzo pieno. Adesso stiamo rivedendo di nuovo qualche sconto al banco del supermercato, ma il carrello della spesa degli italiani come deve aspettarsi in questo autunno? Cosa deve aspettarsi? Ma perché mi fate dare sempre delle brutte notizie proprio a me, tra l'altro? Non lo dico io allora, lo dice l'Istat, lo ha detto un'ora e mezza fa, è arrivata appena l'indice dei prezzi al consumo. Prodotti alimentari, bevande subiscono un rincaro dell'1,3%, tutti gli altri beni quasi del 2%. C'è un motivo perché il carrello della spesa costa di più al consumatore, perché sul mercato è venuto a mancare un terzo dell'acquirente tipico del mercato dei beni di consumo, soprattutto per la spesa cosiddetta alimentare, che è il cosiddetto Horeca. L'Horeca sono gli hotel, i ristoranti, i catering e così via. La crisi che hanno subito queste attività, ancora fortemente in ascesa, appunto che alcune attività sono chiuse per il 70%, soprattutto i catering, non stanno acquistando i beni che tradizionalmente acquistavano dai produttori, quindi immaginiamo le salse, immaginiamo i prodotti per la ristorazione e così via, e quindi quei prodotti vengono riversati sul mercato del consumo, ma con un rincaro proprio per andare in qualche modo a compensare il mancato acquisto da parte dell'Horeca. Quindi aspettiamoci, purtroppo, ahimè, ma lo dice anche l'Istat, ha detto un'ora fa, un aumento dei prezzi al consumo, quindi più di ogni altra volta mettete un po' più la testa durante gli acquisti nella grande distribuzione organizzata soprattutto, e speriamo che almeno il tempo ci aiuti e non faccia schizzare in alto prezzi invece relativi al nostro frutto. Esatto, perché in Veneto stiamo vedendo veramente dei disastri non indifferenti per quello che riguarda il maltempo, una vendemmia che potrebbe essere compromessa con le notizie che sono arrivate nelle ultime ore, quindi non potremo neanche consolarci un po' con delle buone bottiglie di vino novello, perché poi magari abbiamo quello degli anni passati. Caro Mauro, torneremo tutti ad impastare, insomma speriamo che non scompaiano di nuovo le farine sugli scaffali del supermercato, il lievito come è successo in un certo momento. No, io sono a dieta sotto un regime di dieta ferrea e quindi devo assolutamente mantenere. Eh sì, perché durante quella roba lì, la seccatura, il lockdown, o come vuoi chiamarlo, no, più che andare tutto bene, andava tutto stretto, e quindi adesso bisogna. Non so, Luigi, se tu hai avuto lo stesso problema. No, io ho appena scaricato un'app per il digiuno intermittente. No, il digiuno fa male, ma seguite Nicoletta Carbone, ma santo cielo, vi devo dire tutto. Bisogna mangiare bene, fate come me. Io invece ho perso 4 kg durante il lockdown. Pensa a te che è successo. Me lo dirai. Non mi guardare poco. Con la faccia di quello che dice, non si vede per niente se è grassa come prima. No, ti ho guardato con la faccia da adesso ti strozzo. Ma lo faccio a microfoni spenti. Grazie a Luigi Gabriele, presidente di Consumerismo. Consumerismo.it è il sito. E Due di Denari invece ritorna domani. Buona giornata a tutti e grazie. Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it.